di Gregor Samsa, io ve la racconterò. Adesso, mentre dormiva dentro la propria stanza, di colpo tutto cambiò per sempre. È un giorno come un altro di un commesso viaggiatore, ma qualcosa ne è cambiato, soprattutto nell'aspetto. È un uomo ed ora sono diventato un gigantesco inferno.